Ok, allora la lezione di oggi è in estensione come per fare il ponte. Ovviamente non facciamo il ponte come quando eravamo piccoli, però si lavora sulla coordinazione degli estensori delle spalle e scapole. Cominciamo con l'osservare gli appoggi di tutte le parti del corpo, partendo dai piedi e salendo fino alla testa, notando come sono messe le dita dei piedi, il piede, il tallone e poi l'appoggio di ciascuna gamba, quindi il polpaccio. Quanto dista la parte posteriore del ginocchio, della coscia, come appoggia il bacino a destra e a sinistra. E se ce la fate, osservate di fatto che parte preme di più e che parte è più sollevata. E se non sapete qual è, provate a ruotare il bacino destra a sinistra e vi accorgerete che da una parte ruota con facilità e dall'altra meno. Quindi vi accorgerete, no, gambe allungate, con le gambe allungate. Quindi vi accorgerete subito che una parte si solleva e l'altra no. Che una parte va avanti verso il soffitto e l'altra no. Quindi è più ruotato da una parte rispetto all'altra. E poi osservate come appoggia tutta la colonna vertebrale partendo dal coccige e arrivando fino alla testa. Quindi come è messo il coccige e poi come sono messe la parte sacrale, lombare e toracica della colonna vertebrale. A seconda delle persone e a seconda delle giornate per ciascuno di noi, l'arco lombare può essere più o meno accentuato. E più accentuato l'arco lombare, sentirete che in certi momenti o in certe persone si appoggia solo il coccige, la zona tra le scapole, e invece in altre persone e nella stessa persona in altri momenti la zona sacrale e toracica cade un po' di più verso il pavimento perché l'arco è più basso. Quindi osservate a che punto siete adesso. Quali sono le vertebre toraciche che toccano? E quindi le costole. E poi come è messo il collo e la testa. Come tenete la bocca? Ed infine fate particolare attenzione a come sono messe le scapole, quindi se c'è una scapola più in dentro verso la colonna vertebrale rispetto all'altra, quindi se appoggiano in modo asimmetrico, come è messa ciascuna spalla, che spalla è più avanti verso il soffitto, quale più indietro, e di conseguenza come appoggia ciascun braccio, ciascuna mano. Ok. Ed ora, prima di cominciare, osservate se state respirando e se state respirando come lo fate. E provate, prima di cominciare tutta la sequenza, a irrigidirvi tutti, come se foste congelati, e poi, espirando, a lasciare andare il peso, piano, piano, piano, sul pavimento. e lo fate varie volte, vi irrigidite tutti come se foste congelati e poi piano piano piano mentre espirate abbandonate il peso a terra, lasciate andare. Ok, adesso piegate la gamba destra. Appoggiate il piede destro sul pavimento e cominciate lentamente a premere il piede destro per terra. E poi pian piano lasciate andare. E continuate osservando innanzitutto se state premendo tutto il piede come se foste sulla sabbia e premeste tutta la pianta del piede, quindi non preme di più il bordo interno, quello esterno o la punta o il tallone, tutto il piede sta appoggiato e tutto ha la stessa pressione sul pavimento, sulla sabbia. E vi accorgerete che quando premete il piede destro, già lo vedo e già l'avete fatto anche altre volte, vi accorgerete che come conseguenza l'anca destra si solleva. E osservate come lo fate. Premete il piede e si solleva l'anca destra ruotando. Come fa qualcuno, tendete a premere il piede e a sollevare non solo l'anca destra, ma tutto il bacino. Osservate cosa è necessario fare per fare quello che vi ho chiesto effettivamente. Se una persona preme il piede destro per terra e si solleva l'anca destra, non è indispensabile sollevare tutto il bacino e inarcare la schiena, ma semplicemente rotolare verso sinistra. Quindi sentirete che la parte sinistra del bacino sta appoggiata a terra. E osservate se state respirando e cosa fate col ginocchio destro? Sta fermo o lo muovete? E se lo muovete, lo muovete a sinistra o lo allontanate da voi verso il basso? Vi accorgerete che se muovete il ginocchio destro a sinistra, non è il movimento che vi chiedo, di premere il piede, lasciando che l'anca si sollevi, ma semplicemente un ruotare come se foste un palo attorno a voi stessi. Quindi adesso, man mano che lo fate, premete il piede destro, come conseguenza sentirete che l'anca destra si solleva, ma il ginocchio destro si allontana da voi verso il basso, non va a sinistra. E osservate se tenete, come vi ho chiesto, tutta la pianta del piede appoggiata o se andate su un bordo o l'altro del piede. Tutto il piede sta appoggiato a terra e preme per spingere come se camminaste. E man mano che fate il movimento vi accorgerete che come conseguenza succede qualcosa nella gamba e nel piede sinistro. Cosa succede nella gamba e nel piede sinistro? quando piano piano premete il piede destro per terra e sollevate l'anca destra. Vi accorgerete che piede e gamba sinistra ruotano, si girano in fuori verso sinistra. Ok, riposate un po', allungate le gambe. Osservate come l'appoggio a terra dopo aver lavorato un po' sulla parte destra bassa. Ed ora piegate la gamba destra come prima. Piantare il piede appoggiato per terra sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio. Ed ora vediamo se vi è chiaro come mettere la mano, il braccio destro per fare il ponte. Avete presente la ginnastica artistica? Che per fare il ponte si mette la mano girata e appoggiata col palmo in modo che s'appoggi il palmo per terra col gomito piegato e le dita siano girate verso la spalla destra. In altre parole, braccio destro in alto significa appoggiato per terra, con il gomito verso il soffitto e il palmo della mano appoggiato a terra con le dita indirizzate verso la spalla destra. Chi non ha capito, guardi alle tre persone qua che hanno le mani messe come vanno messe, altrimenti ci mettiamo mezz'ora a capire la spiegazione. Ok, chi fa fatica a stare in quella posizione può mettere il palmo destro sopra un cuscino. Cioè, chi sente che la spalla destra ha tanta tensione nello stare a ponte può aggiungere un cuscino all'appoggio della mano destra. Tutti avete un cuscino vicino, quindi chi ne ha bisogno se lo prenda, magari non ne ha bisogno adesso, ma scusate, magari ne ha bisogno adesso, ma non dopo. Silvana, non è questa la posizione, guarda. Ok, adesso con la gamba destra piegata e la mano destra in quella posizione, sì, ma se vi fa male il polso e la spalla è meglio che all'inizio mettiate sotto, vedete voi, però vi aiuta avere la mano sollevata perché fate meno sforzo. Adesso in quella posizione, quindi siete con gomito destro e gamba destra piegata, e adesso fate male così. E adesso piano piano, con la gamba destra piegata e la mano destra ponte, cominciate, chi ce la fa, a premere la mano destra per terra, in modo da sentire, come abbiamo fatto prima, premere il piede, l'anca si sollevava, adesso nella spalla, quando premete la mano destra, la spalla si solleva. Le dita della mano destra sono girate verso i piedi. È il palmo appoggiato a terra e le dita non sono girate verso la testa, ma sono girate verso giù. E continuate a premere, chi ce la fa, la mano destra per terra. Se non ce la fate, fate quello che riuscite. Se non avete capito, guardate chi ha capito come mettere la mano. Altrimenti vi assicuro, investiamo mezz'ora a spiegarci la posizione. Ok, chi fa fatica, ed è possibile, e ascoltate come vi viene da farlo, perché non è facile, può farlo pensando di cominciare dal piede. Se prima premere il piede era automatico che l'anca andasse, adesso non è così conseguente che premere la mano vi faccia passare bene il movimento sollevando la spalla. Allora ciascuno di voi osservi se riesce a premere la mano e lasciare che la spalla si sollevi, e se non ce la fa, può farlo insieme al premere il piede. Quindi se fate fatica, premete insieme il piede e sollevate l'anca, oltre che premere la mano e sollevare la spalla. E se anche questo non vi aiuta, cominciate col farlo partire dal piede. E alla fine arrivate anche alla mano. Quindi esplorate e ciascuno di voi trovi il modo migliore per fare questo movimento, che è il suo, non quello di un altro. E quando siete stanchi, ovviamente vi fermate e vi riposate. Tu forse vuoi cominciare prima con la parte sinistra? Forse a te conviene. Ok, quando vi siete riposati, vi rimettete nella stessa posizione, braccio destro a ponte, gamba destra piegata, e questa volta mettete la mano sinistra appoggiata sul gomito destro. Quindi la mano sinistra avvolge il gomito destro, tutto il contrario. No, a ponte come prima, la stessa posizione, solo che, ok. Adesso fate lo stesso movimento, però vi aiutate con la mano sinistra a muovere il gomito destro verso l'alto. Verso l'alto si intende verso l'alto rispetto alla posizione in piedi. Vi ricordate, nel Feldenkrais alto e basso eccetera è rispetto a quando si è in piedi. Quindi il vostro verso l'alto in questo momento, che siete sdraiati per terra, è verso la parete dietro di voi. La mano sinistra vi aiuta a muovere il gomito destro verso la parete dietro di voi, quindi ad allungare il gomito e la parte alta del braccio destro verso la parete dietro di voi, e quindi la scapola destra si stacca da terra. E osservate cosa fa il resto del corpo: il torace, la schiena, il bacino, l'anca destra al piede destro, e continuate sempre facendo attenzione al respiro, se state respirando oppure no. E poi fate la stessa cosa muovendo con la mano sinistra il gomito destro verso il basso, basso inteso verso il ginocchio e il piede destro. Sempre aiutandovi nel movimento. Cioè, se lo faccio venire in basso, non si alza più l'anca. Fai quello che ti viene. Tra un po' capirete come coordinare tutto. Cercate di evitare di pretendere di capire con la testa, ma di sentire come passa il movimento nel corpo. Perché potete capire benissimo intellettualmente il movimento, ma non riuscirlo a fare. Quindi l'importante è pian piano impararlo. Dare tempo al sistema nervoso di imparare. E poi chi si è riposato lo riprende, chi ha bisogno di riposo si riposa. Il prossimo movimento non è altro che l'unione dei due. Quindi con la mano sinistra appoggiata sempre sul gomito destro, muovete il gomito destro verso l'alto, premendo il piede, e poi lo muovete verso il basso, tornando con la scapola e l'anca. Quindi allungate il gomito in alto, il ginocchio in basso, e si stacca la spalla e l'anca, e poi muovete il gomito in basso, e l'anca ritorna appoggiando spalle ed anca. Quindi una volta spalle ed anca si allontanano da terra e il lato destro si allunga, una volta spalle ed anca si avvicinano a terra e il lato destro torna in posizione normale, sempre prendendovi riposo quando avete bisogno, osservando se state respirando. Ok, vi fermate e allungate le gambe, le braccia e osservate come state appoggiate a terra. Ok, ripiegate la stessa gamba, il stesso braccio, quindi gamba e braccio destro, braccio a ponte e gamba piegata. Con la mano sinistra avvolgete il gomito destro e lentamente muovete con la mano sinistra il gomito destro in fuori a destra e ritorno, molto lentamente. Chi ha bisogno, invece che appoggiare la mano per terra, la tenga pure elevata, appoggiata su un cuscino, se ha bisogno. Chi ce la fa a tenere la mano ponte appoggiata, la tiene appoggiata a terra, senza cuscino. E piano piano continuate il movimento anche di millimetri, ascoltando cosa succede nella schiena, ma soprattutto nella scapola destra. I muscoli tra la scapola e la colonna vertebrale sono bloccati, sono morbidi, se pian piano imparate a muoverli. E poi chi ha bisogno si riposa, chi può andare avanti, comincia a muovere il gomito destro con la mano sinistra all'interno verso la testa. Quindi questa volta la mano sinistra muove il gomito destro verso sinistra, verso la testa, verso la faccia, indentro. Piano, piano, piano, respirando. Ricordatevi che l'importante non è il numero delle ripetizioni, la quantità, ma il come, la qualità e come il movimento passa e pian piano, potremmo dire, scioglie tutto il corpo. Tutti i muscoli si aggiustano in modo da sciogliere e far sì che questo movimento diventi sempre più semplice. Dopodiché, chi ha bisogno si riposa e chi vuole invece muove con la mano sinistra il gomito destro verso destra e verso sinistra, quindi in dentro ed in fuori. Osservando se si muove solo quella parte, pian piano tutto viene coinvolto. Ok, vi fermate, allungate gambe, braccia. Vi riposate, osservate come appoggiate adesso per terra nel lato destro di spalla destra, braccio destro, bacino e gamba destra. Se c'è differenza tra un lato e l'altro. Ed ora ripiegate come prima tutto il lato destro, quindi gamba destra piegata, mano e braccio destro a ponte, avvolgete con la mano sinistra il gomito destro e piano piano con la mano sinistra fate descrivere al gomito destro tutto un cerchio, muovendolo lentamente in alto, in dentro, in basso, in fuori. E osservando se potete essere agevolati nel fare questo muovendo altre parti. Cos'altro potete muovere? Oltre alla spalla destra. Molto spesso i blocchi nella spalla sono associati a blocchi dell'anca dello stesso lato di quello opposto. Quindi osservate se quando fate il giro con il gomito destro, fate fare il giro con la mano sinistra e il gomito destro, pian piano si muove un po' anche l'anca destra, premete un po' il piede destro, se succede qualcosa anche là, o se è semplicemente un movimento distaccato, isolato in alto. Il movimento di una parte è il pretesto per muovere tutto. Molto lentamente e invertendo anche il senso, un po' in senso orario e un po' in senso antiorario. Osservate se vi aiutate premendo il piede destro, sollevando l'anca destra, se il movimento passa anche nella schiena, nel torace che si estende, o se è solo un piccolissimo movimento nella spalla. Se si muove pian piano il tutto o la parte, se piano piano vi scongelate. Se state respirando, come tenete la bocca, la lingua, e poi vi fermate e allungate gambe e braccia. E osservate come state appoggiate a terra. Se c'è differenza tra una parte e l'altra. Dopodiché piegate la gamba sinistra. Appoggiate il piede sinistro per terra sotto la perpendicolare che scende dal ginocchio e appoggiando bene tutto il piede, premete il piede come per premere sulla sabbia, ma tutta la pianta del piede ha la stessa pressione, quindi evitate di premere di più un bordo, l'altro, un tallone, la punta, cioè tutta la pianta del piede. Preme a terra. E osservate cosa succede da questa parte e confrontatela con l'altra. Non è detto che il movimento sia uguale, può essere quasi come se fosse di un'altra persona. Quindi piano piano premete il piede e sentirete che piano piano la parte sinistra del bacino si solleva. Premo il piede, di conseguenza l'anca si muove avanti verso il soffitto. Fino a che livello arriva la torsione nella colonna vertebrale? Cosa fa la gamba destra e il piede destro? Vi accorgerete che quando premete il piede sinistro, sollevate di conseguenza l'anca sinistra, la gamba e il piede destro si girano in fuori, ruotano, il che non significa strisciare in fuori la gamba, ma semplicemente premendo il piede sinistro, il piede destro e la gamba ruotano in fuori e quindi si appoggia al bordo esterno del piede destro a terra. Ok, adesso mettete la mano sinistra a ponte. Quindi braccio sinistro piegato, gomito al soffitto. Appoggiate il palmo a terra con le dita che sono indirizzate verso la spalla, verso il piede sinistro. Quindi il polso verso la parete dietro di voi e le dita sono girate verso il piede sinistro e si appoggia il palmo della mano sinistra, non il dorso. Se non riuscite, sollevate la testa e guardate come sono messi gli altri. Chi fa fatica si può aggiungere il cuscino. Fai quello che riesci. Fate quello che riuscite. Mettete sotto tanti cuscini in caso. All'inizio. Perché si è diversi da un lato rispetto all'altro. E studiateli nella posizione. Ok. Bene, adesso cominciamo e provate i vari modi. C'è chi potrà farlo come abbiamo appena fatto, col piede in modo speculare. No, il braccio destro lungo il fianco in questo momento. In modo speculare, quindi prima premevate il piede e si sollevava l'anca destra. Adesso premete la mano destra, si solleva la spalla e la scapola sinistra, destra, scusate, avanti al soffitto. Vedete se riuscite a farlo? Cominciando col premere la mano destra, che spinge e solleva la scapola destra. Sì, scusate, sinistra, mi sono sbagliata, perché guardavo lei che è speculare. Oppure se per premere con la mano sinistra e sollevare la scapola e spalla sinistra, vi riesce più facile farlo premendo contemporaneamente piede sinistro e quindi l'anca sinistra si solleva. Oppure, se vi risulta meglio, farlo facendolo partire dal piede che preme e fa sollevare l'anca e poi premete la mano e sollevate la spalla. Quindi Ognuno ha il proprio modo di coordinarlo, scoprite il vostro. Questi sono tre modi, ma magari ce ne sono degli altri, che possono essere mettendo di più l'attenzione al torace, alla schiena. Ognuno trovi il suo modo. Osservate se respirate, come tenete la bocca. E riposate un po'. Dopodiché ripiegate la gamba sinistra, mettete il braccio e la mano sinistra a ponte, avvolgete con la mano destra il gomito sinistro e piano piano muovete con la mano destra il gomito sinistro verso l'alto, il che significa verso la parete dietro di voi, in modo che la spalla sinistra si sollevi. Quindi allungate il fianco sinistro. E osservate se mano a mano, quando muovete con la mano destra il gomito sinistro verso l'alto, la parete dietro di voi, premete anche col piede sinistro e sollevate l'anca sinistra. Quindi gomito e ginocchio sinistro si allontanano l'uno dall'altro, il lato sinistro si allunga. E osservate se respirate, se tenete la bocca morbida. E adesso muovete con la mano destra il gomito sinistro verso il basso, per basso verso il piede intendo. Con la mano destra muovete il gomito sinistro verso il piede sinistro. Ok, adesso di seguito con la mano destra muovete il gomito sinistro verso l'alto, parete dietro di voi, e verso il basso, verso il piede sinistro. E il ginocchio sinistro si muove in modo speculare, quando il braccio sinistro va in alto, il ginocchio sinistro va in basso. Quando il gomito sinistro va in basso, il ginocchio sinistro torna. Detto in altro modo, quando si solleva la spalla sinistra, si solleva l'anca sinistra. Quando si appoggia la spalla sinistra, si appoggia l'anca sinistra. Il lato sinistro si allunga e ritorna, si allunga e ritorna. È un sai dove, sì. Più o meno. Se pensate in termini di orologio, sì. Attenta però che non è 6-12 antero-retroversione, ma è associato alla torsione. Quindi quando premi il piede sinistro si solleva l'anca sinistra e va in torsione anche. Ok, riposate un po', allungate gambe e braccia. Ripiegate la gamba sinistra, rimettete il braccio sinistro a ponte, avvolgete con la mano destra il gomito sinistro e cominciate a muovere con la mano destra il gomito sinistro in fuori a sinistra e ritorno, tenendo sempre il palmo, per quel che potete, appoggiato a terra e appoggiando la mano su dei cuscini che ve la sollevano se fate fatica. E continuate muovendo con la mano destra il gomito sinistro verso dentro, verso destra, osservando cosa fa la scapola quando muovete il gomito in questa direzione e se si muove solo la scapola. Dopodiché muovete il gomito sinistro con la mano destra in dentro e in fuori. Osservando cosa si muove, osservando se state respirando o trattenendo il respiro e come tenete la bocca. Riposate un po' e poi piegate ancora una volta la gamba sinistra, la mano sinistra punta, il braccio. Con la mano destra avvolgete il gomito sinistro e con la mano destra fate descrivere il gomito sinistro tutto un cerchio, muovendolo in alto, in fuori, in basso, in dentro, un po' di volte in un senso, un po' di volte nell'altro e osservando se si muove solo il gomito alla spalla o se pian piano vi scongelate e con movimento concentrico arrivate a muovere tutto il corpo. State coinvolgendo piano piano anche il piede e il bacino. Allora, pian piano vedete se riuscite a coinvolgere anche il piede e il bacino. Datevi tempo e osservate. Ve lo dico perché vedo che dall'altra parte l'avevate fatto, da questa probabilmente vi dimenticate e non sentite, non avete ancora imparato, quindi datevi tempo, evitate di fissarvi solo sul gomito e la spalla, ma piano piano piano passate dalla parte al tutto e dal tutto alla parte. Una domanda, quando il gomito viene portato giù, le dita, il palmo può sollevarsi? Il palmo può? La mano si può sollevare? Beh, dipende, se tu riesci a tenerlo appoggiato, meglio, se hai bisogno, staccalo. Vi accorgerete che quando descrivete il giro col gomito sinistro condotto dalla mano destra. Quando il gomito sinistro va in alto, il piede sinistro preme, il ginocchio sinistro va in basso e l'anca sinistra si solleva. E di conseguenza tutto il lato sinistro, il piede sinistro e l'anca sinistra si muovono in modo speculare al movimento del gomito sinistro. Come dicevo prima, blocchi nella spalla e nella scapola, se studiate un po', vedrete che sono conseguenza o si ripercuotono nell'anca e nel bacino e nel piede e nel ginocchio, eccetera, eccetera. E potete anche invertire il senso e osservare se continuate a respirare, come tenete la bocca. Ok, riposate, allungate gambe e braccia. E osservate come siete appoggiati a terra. Ok, adesso piegate la gamba destra e mettete il braccio destro e la mano a ponte. E come prima premete mano e piede allontanandoli l'uno dall'altro, ma questa volta chi ha dei cuscini in più può toglierli dietro la testa, ma questa volta infilate la parte posteriore della testa nel buco del braccio destro. Quindi la testa si ruota a sinistra e infilate la nuca, la parte posteriore della testa nel buco del braccio destro. Quindi piano piano piano premete il piede destro, sollevate l'anca destra, premete la mano destra e la spalla destra e quindi inarcandovi concludete il movimento con un movimento meraviglioso, artistico, in estensione, infilando la parte posteriore della testa nel buco del braccio destro. E quando lo fate, osservate varie cose. Esempio, se respirate, come tenete la bocca? Si è contratta o socchiusa? E come tenete il mento? Provate a fare questo movimento tenendo il mento attaccato alla gola. Quindi evitate di allontanare il mento dalla gola quando fate questo movimento. In altre parole, allungate la parte posteriore del collo mentre fate questo movimento. E poi provate a farlo allontanando il mento dalla gola. Ma non va più dentro. Come? Non va più dentro la testa, si va dentro la fronte. Quando? Se il mento lo alzi, va dentro la fronte. Non la nuca, nel buco. Sì. E quando il mento è vicino alla gola, cosa va? La nuca. Ok, per te la coordinazione è così. Allora, osservate cosa fa la parte bassa del corpo mentre fate questo movimento, dal piede fino al collo. Cosa fa? Ruota, si estende, si flette, cosa fa? La parte. Dal collo al piede. Cosa fa? Si estende. Si estende, ok. Allora, cos'è il movimento naturale della testa quando tutto il resto è in estensione? Va su il mento. Quindi anche la testa si estende, il collo si estende. Allora, ovviamente nelle varie tecniche ci sono tutti i movimenti differenziati, eccetera, eccetera. Qui stiamo lavorando sul movimento naturale. Quindi nel movimento naturale una parte in flessione e tutto si flette, una parte in estensione tutto si estende. Il movimento del mento vicino alla gola è per farvi percepire la differenza tra il collo che è in continuità con la schiena o il collo che è dimenticato e non si sa come si muove. Ok, riposate un po', allungate le gambe, le braccia. E adesso piegate gamba sinistra, braccio sinistro e facciamo la stessa cosa. Piano, piano, piano, premendo il piede sinistro ed il braccio sinistro. Non occorre più mettere la mano destra sul gomito. Mano destra, mettetela. No, no, non sul gomito. Ok? Premete mano sinistra e piede sinistro. E piano, piano, piano fate tutto il movimento, lasciando che il gomito e il ginocchio si allontanino l'uno dall'altro e pian piano vi accorgerete che la conclusione naturale del movimento è infilare la parte posteriore della testa dentro il buco formato dal braccio destro. Vai, vediamo. Sì, è quello che dico io, è la stessa cosa. È la stessa cosa. Invece che pensare di allontanare il mento dalla gola, pensi di andare con la fronte indietro, però è la parte posteriore che va. La testa è girata a destra, non è girata a sinistra. Quindi non è la faccia che va nel buco formato dal braccio sinistro, ma il viso è girato verso destra, è la parte posteriore della testa che va dentro il buco e ovviamente se completate l'estensione, come diceva lei, alla fine con la fronte si va dentro del tutto nel buco del braccio sinistro, però la testa è girata a destra. Non è girata a sinistra. Piano, piano, piano. E osservate se riuscite a tenere il ginocchio sinistro fermo, o meglio, se il ginocchio sinistro si muove verso il basso, ma non verso destra. Quindi lasciate che ci sia l'aiuto del piede sinistro che preme, e il ginocchio sinistro si muove verso il basso, non a destra. Quindi il lato sinistro si allunga, ginocchio e gomito sinistro si allontanano l'uno dall'altro. Sentirete che la gamba destra ruota in fuori e anche il piede destro, e che la testa conclude il movimento infilandosi dentro il buco del braccio destro. Chi vuole sperimentare può anche provarlo a fare come abbiamo fatto dall'altra parte qualche volta, tenendo il mento verso la gola. Quindi è un movimento differenziato perché c'è tutta una parte in estensione e il collo è in flessione. E dopo che l'avete fatto, tenendo il mento vicino alla gola, provate a rifarlo allontanando il mento dalla gola e sentirete la differenza. e osservate se tenete la bocca morbida, socchiusa, o se tutta la parte della mandibola è contratta. E poi vi fermate, allungate le gambe, le braccia, togliete i cuscini in più e cominciamo ad osservare gli appoggi partendo dal basso fino alla testa. Osservate come sono messi i piedi, i talloni, i polpacci, quanto distano le ginocchia e le cosce da terra, come appoggia il bacino a destra, a sinistra. E poi tutta la colonna vertebrale, dal coccige alla testa. Come è messo il coccige, l'osso sacro, l'arco lombare, le vertebre, le costole toraciche, il collo, la testa, la bocca. E infine fate particolare attenzione a come appoggiano adesso le scapole. Se vi ricordate per caso quale era più in dentro verso la colonna vertebrale e quale meno, le spalle, le braccia e le mani. E quando siete pronti, lentamente arrotolate di fianco, vi sedete, vi alzate e quando siete in piedi, osservate, prima di camminare e andare a cambiare, come state in piedi e come camminate.